Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brustolando Maridia ai microfoni, vi dà il benvenuto per questa ricchissima puntata di Brustolando. E la stagione radiofonica volge al termine, perché questa è la penultima puntata, quindi martedì prossimo concluderemo una stagione ricchissima, intensa, che ha superato, credo, in quantità il numero di interviste fatte su base annuale. Mi scuso con quanti ancora non abbiano potuto riascoltarsi in podcasting, ma mi auguro che effettivamente qualche giorno di vacanza ci permetterà di poter aggiornare rapidamente sia la pagina Facebook di Maridì, sia il podcasting di Radio Alma e di Brustolando in particolare. È il 21 luglio, un giorno speciale qui a Bruxelles, un giorno di festa, un giorno in cui si ricorda ancora un passato che è bene ricordare, nonostante il futuro corra così velocemente. Quindi auguriamo al Belgio, ai suoi cittadini e a tutti noi che viviamo anche in questa città, a Bruxelles in particolare, donde è anche il nostro nome, veramente un futuro prospero, perché abbiamo bisogno anche di tanto buon ottimismo, già che insomma molto spesso si sentono solo cose insomma negative. Invece è importante ricordare in maniera intelligente allo stesso modo. Questa sera, poiché ci tenevo particolarmente a questa puntata, a questa data in particolare, abbiamo ricontattato un amico che era stato con noi qualche tempo fa, un amico che ha anche animato una delle sezioni di Brustolando per un po', cioè jazz e dintorni, prima che diventasse essa stessa un'emissione indipendente. Il nostro amico Stefano Baldi, che abbiamo raggiunto telefonicamente dall'Italia, quindi ci racconta quello che è accaduto in questo tempo che lo ha visto trasferirsi nuovamente in Italia. Io auguro a tutti un'ottima trasmissione, un'ottima serata e vi lascio poi in compagnia di George Laurent e Fiordaliso. Quindi buona festa nazionale a tutti, buon 21 maggio per quelli in vacanza. Buone vacanze e per quelli che invece sono ancora al lavoro, tenete duro, le vacanze sono sicura, sono alle porte. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Stefano. Cari amiche, cari amici, bentornati. Quindi, dopo questo suggerimento musicale di Dani M, come vi dicevo in apertura, ritorna ai microfoni di Brustolando dopo qualche tempo di assenza, un caro amico, un amico con il quale, come sapete, sebbene abbia lasciato Bruxelles già da qualche tempo, abbiamo collaborato anche a distanza. Come sapete, la rubrica che abbiamo a Brustolando quasi una volta al mese, quasi, La penna del diplomatico, nasce proprio in collaborazione con Stefano Baldi, che saluto in quanto è in collegamento telefonico da Roma. Stefano, bentornato, ri ben ritrovato a Radio Alma, Brustolando. Anch'io dico ben ritrovati a tutti voi, per me è ecco, un po' di nostalgia, se devo confessare, però come hai detto tu, i contatti sono continuati e sono molto contento che li posso seguire anche se un po' a distanza, no? Assolutamente Tramite sì. computer. E grazie anche alle nuove tecnologie che ci permettono soprattutto di restare in contatto. Allora, ricorderete che Stefano ha avuto brevemente un'esperienza radiofonica nell'ambito di Brustolando. Per 5 o 6 mesi, credo ci fu jazz e dintorni come diciamo chiusura del programma, e poi Stefano condusse per un anno intero, credo, proprio una trasmissione dedicata al jazz. Quindi Stefano, prima di inoltrarci nell'intervista di questa sera, ci racconti quando nasce la tua passione per la radio? Nasce, sai, come desiderio nel periodo delle radio private italiane, quando ci fu un po', e quindi era un po' un mito quello di poter andare e parlare, che io non ho fatto allora, ho fatto pochissimo, però mi è sempre rimasto. E in più la grande bellezza della radio, vabbè, ma qui non voglio adesso aprire un capitolo su quanto questo mezzo possa dare e trasmettere. E soprattutto il desiderio di condividere, no? Da qui il jazz, una delle mie grandi passioni è il jazz, e allora quale modo migliore di proporre agli altri le cose che ti piacciono e magari anche parlarne con gli altri, scusa. Questo è il mio modo di intendere un po' la radio. Assolutamente, quindi a Bruxelles per un anno hai curato questo programma radiofonico che seguiva poi tra l'altro Bruxellando perché cominciava alle 21 e terminava più o meno verso le 22, poi è rientrato a Roma, hai semplicemente un po' giocato con le parole perché da qualche tempo, quindi mi congratulo nuovamente, continui a perseguire questa passione con una rubrica molto interessante che come sai seguo con molto piacere dal titolo Diplomazia. E dintorni. Quindi, siccome siamo nell'ambito della pena del diplomatico, in questa rubrica che, come dicevamo prima, nasce anche grazie al tuo intervento e a questa tua brillante idea, per l'appunto E di... anche la tua grande disponibilità, No, dobbiamo dirlo però. no, se non ci fossero i diplomatici scrittori, non ci sarebbe nemmeno Mari Dia ad intervistarli. Senti, comunque, allora raccontiamo un po' agli amici all'ascolto, così magari conquistiamo anche qualche ascoltatore, perché poi spiegheremo come è possibile seguirti anche a distanza. Quindi raccontaci un po' di questa tua trasmissione e quali sono i temi di cui tratti su base settimanale. Come hai detto tu, l'idea è un po' deriva da quello che abbiamo iniziato a Bruxelles, no, anche il titolo Diplomazia d'intorno. E il concetto di base è sempre lo stesso, cioè cercare di unire le passioni che ognuno di noi ha o il lavoro che svolge, le competenze che ha. Mischiando questi elementi, visto che io adesso a Roma mi occupo di formazione, sono responsabile della formazione del personale e quindi anche dei diplomatici del Ministero degli Affari Esteri, ho cercato di unire tutte queste cose, metterle insieme e trovare uno spazio in una radio per parlare di diplomatici e diplomazia. In certi casi ti faccio anche la concorrenza perché anch'io parlo un po' di diplomazia, casomai ne parliamo. Assolutamente, sì, perché... Ma sappiamo che tra noi non è concorrenza, è collaborazione. Quindi mettere insieme questo per fare una trasmissione in cui spiegare un po' meglio che cosa fanno i diplomatici, che cos'è la diplomazia, no? E portando i diplomatici stessi per spiegarlo. E quindi questo mi ha dato la possibilità poi di percorrere varie strade su tematiche un po' meno note, non di carattere politico, ma veramente di carattere di lavoro. Allora, il posto migliore dove fare tutto questo non poteva che essere. E visto che adesso alcune università hanno anche delle radio, in genere web radio, la radio dell'Università Luiss, che è una delle università private di Roma, mi ha offerto questa possibilità e io l'ho colta. Quindi già dall'anno scorso, adesso siamo alla seconda stagione e continuiamo con questa trasmissione. Allora, dicevi una cosa molto bella, che mi fa riflettere anche rispetto al nostro programma, culturale che è Bruxellando. Parlavi di formazione. Allora, sarei curiosa proprio di sapere qual è la tua prospettiva, cioè quando tu decidi di parlare di un argomento, di trattare di una tematica, il tuo punto di vista qual è? Quello di, ovviamente, di informare, però probabilmente di andare anche al di là dell'informazione stessa. Certamente in questo caso è veramente di approfondire, perché la tematica della diplomazia, dei diplomatici, del ruolo del Ministero degli Affari Esteri, del ruolo di chi ha come scopo quello di occuparsi di relazioni internazionali, è qualcosa che effettivamente è poco noto. Cioè, si hanno molte notizie, ma si ha relativamente meno informazione e quasi niente approfondimento sull'attività del diplomatico. Se dico che il diplomatico è anche un operatore culturale, dico per dire, o che si occupa anche di promozione commerciale ed economica, tutti si immaginano qualcosa, ma poi si ferma lì, non è che nessuno sa in che cosa consiste. Allora, questo desiderio di far conoscere meglio, di coinvolgere dei colleghi e di spiegare l'attività quotidiana è stata la chiave di volta per mettere in piedi il programma. Io credo che funzioni perché anche dai riscontri che abbiamo avuto così di chi ci scrive, studenti, chiaramente bisogna avere in mente un po' una constituency e la constituency, il riferimento diciamo, di audience potenziale non può che essere quella dei giovani che studiano, che sono interessati alle giornali che poi in futuro magari guardano a una carriera internazionale, non necessariamente quella diplomatica. Certo. In modo da allargare il loro orizzonte, questa è un po' l'aspirazione. E allora, quando scegli i temi, perché parliamo di informazione, parliamo di formazione, parliamo di un certo, di una tipologia, se vuoi, di ascoltatori o di potenziali interessati che possono seguire la trasmissione. Come scegli i temi? Sei influenzato? Anche qui c'è una specifica che ti devo fare, perché, come dicevo prima, ho cercato di unire tanti anelli. Io avevo tante variabili, ho cercato le equazioni per poi trovare una soluzione finale. Una delle variabili che io ho voluto utilizzare nel fare il nostro programma era di, come dicevo prima, coinvolgere i miei colleghi, ma in particolare quei colleghi, quei diplomatici, che devono seguire un periodo di formazione. Io mi occupo, come dicevo prima, di formazione, quindi devo organizzare i loro corsi. All'interno di questo percorso di diversi mesi che loro devono seguire, io ho messo anche la possibilità di venire in radio ed esporsi, no? Perché non è che capita proprio tutti i giorni che uno parla in radio o sta in un programma, diciamo, un po' più lungo, però professionalmente può capitare ai diplomatici di avere delle interviste molto rapide. Allora, secondo me, aver fatto pratica già può semplificare o rendere più efficace il momento in cui magari si è intervistati per altre cose. Questa è un po' l'idea. Allora, che succede? Che i temi che io scelgo sono un po' vincolati dalle attività che in quel momento svolgono i miei colleghi che li voglio portare. Faccio esempio, se io ho uno di questi colleghi che si occupa di cooperazione scientifica e tecnologica, ed è un esempio reale, io la inviterò, in questo caso era una collega, a venire e gli dirò: senti, spieghiamo in che cosa consiste la diplomazia scientifica, no? Che è poi quello di cui lei si occupa, in modo che lei ha la possibilità di, sotto le mie domande, che insomma, vogliono essere incalzanti ma anche un po' diciamo pedagogiche per chi ci ascolta, di spiegare che cos'è questo mondo della diplomazia scientifica. Quindi tutti i vari temi sono stati in genere collegati con le competenze di quel momento delle persone. Detto questo, poi ci sono state anche interviste su cosa fa un'ambasciata, cosa fa, come si negozia, anche alcuni aspetti di, diciamo, competenze, di skills. Ma sono state abbastanza guidate dalle persone, facendo un po' un mosaico, ecco, tutto questo. Per esempio, se non ricordo male, 2 settimane fa ti sei occupato anche di negoziazione internazionale, quindi mi sembra tu avessi in studio con te proprio un esperto che spiegava per l'appunto come avveniva un negoziato internazionale. Allora, questa è sempre stata un po' anche una mia curiosità, cioè ci puoi raccontare un po' proprio se tecnicamente qualcosa, proprio come avvengono i negoziati internazionali per l'Italia in un contesto ovviamente delle Nazioni Unite oppure magari anche a livello europeo? Beh sì, certo, è una, sicuramente qualcosa di molto interessante e che è un po' anche mitico, perché poi spesso si vedono queste grandi sale di assemblee o un po' più piccole in cui tutti stanno intorno al tavolo e non si capisce poi che cosa fanno. In realtà la diplomazia multilaterale, appunto quella che prevede la maggior parte del tempo passato appunto a negoziare su testi o su iniziative, decisioni, quello che è abbastanza complessa, però è complessa con certe sue regole. Significa che naturalmente si va sempre in questi negoziati presumibilmente con una già conoscenza abbastanza approfondita del tema che si va a discutere, della documentazione che si deve poi approvare o negoziare, delle posizioni del paese che si rappresenta e degli altri paesi o gruppi di paesi. Ci sono dinamiche molto complesse spesso, però anche che rendono ancora più interessante diciamo questa attività, che vanno abbastanza conosciute, non ci si improvvisa negoziatori. Detto questo, non bisogna mai pensare che la maggior parte di questi negoziati siano quelli che si svolgono in un giorno. Certo. I negoziati non sono quelli del vertice, no? In cui il capo, il ministro o il presidente del consiglio va lì, discutono, non lo so, 6 ore, 5 ore e si giunge alla conclusione. È tutto quello che c'è prima, casomai, no? Che è di preparazione, affinché poi in poco tempo si possa giungere a una conclusione. E quello dura molto di più, quindi c'è anche una frequenza. Quando io stavo lì a Bruxelles, il nostro gruppo si riuniva 3 volte a settimana, io vedevo quasi più i miei colleghi che non la mia famiglia, no? Passavo più tempo con loro, che significa che ci si conosce, fa parte anche delle personalità. Quindi la cosa affascinante, diciamo, del negoziato, del negoziare, è che ci sono degli aspetti tecnici e ci sono anche degli aspetti, diciamo, personali, psicologici, no? Certo. Che sono importanti, perché bisogna poi un po' conoscere per riuscire a sapere fino a dove ci si può spingere con le persone che, no, ti stanno accanto e magari hanno degli interessi che non coincidono. E tutto questo si può raccontare entro certi limiti, però poi è molto, e si può anche studiare. La puntata che hai sentito, da cui ti riferivi, era una puntata in cui parlavamo di come si può cercare di fare formazione per questo tipo di attività, mm-hmm. con quelle che si chiamano le simulazioni. Sono cose molto complesse, molto serie, se fatte bene. Però ecco, certo. Fare della teoria poi è anche molto importante accumulare esperienza, no? Negoziare all'ONU è diverso da negoziare all'Unione Europea. Allora, restiamo alle Nazioni Unite, perché invece ieri sera tu hai parlato della carriera internazionale. Sì. Allora, noi abbiamo tanti ragazzi, sappiamo che la nostra audience è composta veramente da tantissimi ragazzi under 30. Come sai, Bruxelles comunque è un po' la patria delle istituzioni europee, approdano in tanti proprio col sogno di lavorare per le istituzioni europee. Però se magari uno volgesse lo sguardo altrove, se magari una volta ad immaginare, sognare Bruxelles, ci fosse magari New York oppure Bangkok per la Thailandia, insomma, per restare in tema di Nazioni Unite, come si fa ad accedere invece a questa carriera? No, il mondo, come tu già lo hai brevemente delineato, il mondo delle organizzazioni internazionali è molto più ampio di quello che normalmente si conosca, non solo in termini geografici, ma anche in termini di competenze, di grandezza delle organizzazioni. Quindi è una galassia, direi, che va esplorata da parte di chi ha così qualche tipo di interesse o di stimolo verso questo. Non bisogna fermarsi solo a quello che si conosce di più. Detto, e quindi tutto questo chiaramente è online, ci vuole molta pazienza di approfondimento, di vedere quali sono le organizzazioni. Ci sono molte organizzazioni regionali che magari possono essere altrettanto interessanti, sono le organizzazioni finanziarie internazionali, però il punto essenziale da tenere presente per chiunque si avvicina o si vorrebbe avvicinare a questo mondo, ed è venuto fuori chiaramente anche nell'intervista che abbiamo fatto ad un funzionario internazionale dell'ONU, è che ci vogliono delle caratteristiche che comunque devono essere presenti nelle persone che vogliono fare questo tipo di lavoro. Sono le caratteristiche intangibili, come quelle della motivazione, della determinazione, no? che sicuramente sono difficili da descrivere, ma che fanno capire che non ci si avvicina a questo mondo perché così mi sembra interessante, perché ci si crede, certo. Altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi ci sono anche dei valori, insomma, al di là di quello che uno possa... principi, altrimenti poi... La motivazione e l'entusiasmo non ci sono, se non ci sono i valori, come tu giustamente hai immediatamente colto, non hai la base per avere quella forza, quell'entusiasmo, quella determinazione che sono fondamentali. Quindi questi sono gli elementi intangibili. Gli elementi tangibili, secondo me, che sono fondamentali per avvicinarsi a queste cose, è che non basta studiare. Mm-hmm. È molto importante maturare delle esperienze lavorative. Tanto qui non è che facciamo un programma su quello, però è bene aver questo, metterselo bene in mente. È praticamente impossibile entrare, dico, all'ONU se uno già non ha fatto qualcos'altro prima. Certo. Io non ne conosco di persone che sono entrate. Quindi l'esperienza è un fattore molto importante. Quindi prima di avvicinarsi a questo, forse è bene accumulare anche dell'altro. Questo è il da tenere a mente, che viene fuori in ogni storia che poi assolutamente. E a questo magari poi possiamo aggiungere anche la conoscenza di almeno una lingua straniera, perché insomma solo con la lingua italiana insomma non possiamo andare molto lontani. Vero, con tutto l'amore per la lingua italiana, solo con la lingua italiana la lancio una parte. Ora abbiamo solo dato un paio di esempi, no, di quelli che sono i temi che affronti su nel tuo programma. Allora mi veniva da pensare prima, no, che sia Brussellando, e quindi anche la nostra penna del diplomatico, così come la tua diplomazia e dintorni, esulano un po' da quel tipo di informazione, magari un po' più mordi e fuggi, che ritroviamo su internet quasi ogni giorno. Allora, facevo proprio una riflessione, e sono felice di condividere con te questo pensiero, proprio sul ruolo di questa nostra informazione, che dall'altro, da un lato è un'informazione culturale, però dall'altra non è solo informazione, è anche diffusione, perché diffondiamo comunque, di questo ne sono convinta anche molto modestamente, un messaggio che poi possa essere condiviso oppure no, è un'altra cosa, però diffondiamo comunque dei principi, dei valori, la lingua italiana, quello che la lingua stessa riesce. Ma secondo te, verso dove andiamo? Cioè abbiamo ancora uno spazio, cioè possiamo ancora essere ottimisti rispetto al tipo di informazione che qualcun altro invece vorrebbe vendere, cioè un'informazione più veloce, più immediata, più usa e getta, semmai? Allora, ragione, è una riflessione importante che va a toccare delle tendenze che talvolta non si colgono del tutto. Quello che tu dici sulla velocità è sicuramente una delle caratteristiche del 2.0, no? Se vogliamo definirlo. Esatto, sì. Che il 2.0 è il mondo in cui i giovani attuali crescono, è un mondo affascinante, io trovo sia un mondo fantastico, bellissimo e molto promettente, però come tutte le cose ha dei però, no? Però il rischio è di continuare e di immaginare che la vita sia solo fare il surf, no? Andare da un'onda all'altra sperando non ti si rompa addosso, salti da una cosa all'altra molto leggera, molto veloce, no? E non approfondisci mai. Allora, questo, se diventa questo un modello, io ho delle difficoltà, nel senso che trovo che ci sono dei pericoli insiti in questa grande facilità di accesso, grande velocità di accesso, però di rimanere sempre in superficie, di vedere la pagina per, non so, 30 secondi, leggere rapidamente perché è molto sintetico, questo va bene, ma se questo diventa il metodo è pericoloso culturalmente, professionalmente, e anche personalmente. Allora in questo trovo la validità e anche lo spazio che ancora c'è e secondo me continuerà ad esserci per programmi come i nostri, adesso non è che come tipologia, voglio dire, cioè dei programmi che hanno un respiro diverso, che hanno un respiro, come dicevi tu, di diffusione, di approfondimento, magari di ingrandimento di piccole cose per poi far vedere le sfaccettature che hanno, non solo guardare l'immagine immediata, no, bidimensionale, ma cercare di vedere che ci sono vari aspetti, e per questo ci vuole un respiro diverso, magari una lunghezza diversa, persone, no, sentire persone diverse, dargli il tempo per parlare, non dire solo, cioè, la battuta di 15 secondi perché poi dopo c'è il servizio successivo. Certo. Quindi a mio avviso questa è una grande valenza per chi poi ne sa beneficiare, perché chiaramente chi poi si annoia perché ha sentito troppo tempo, se uno ha parlato un minuto di più, se questo diventa poi un limite non si va lontano, perché per ottenere certi risultati, qualsiasi sia il campo, e lo sappiamo questo, ci vuole tempo e approfondimento. Assolutamente, sai, come sai, qualche tempo fa ho intervistato Luca Gori. E allora, leggendo il suo saggio dedicato alla politica estera di Obama in Asia, mi è venuto in mente di paragonare un po' la sua scrittura ad una lente di ingrandimento, perché è stato comunque capace, secondo me, di trasmettere davvero un messaggio in maniera chiara, concisa e anche molto precisa. Quindi, sei d'accordo con me? Tutto sommato servono questi momenti di riflessione, nonostante magari il seguito non sia di quello che numericamente conta, però insomma seminare oggi per raccogliere probabilmente tra qualche tempo. Ma io credo che non si debba solo pensare a, seguire la grande massa, senza avere, e lo dico con profondo rispetto della grande massa, non con spirito elitario, naturalmente, però bisogna anche tenere presente che ci sono delle minoranze che bisogna tutelare. In questo caso dico le minoranze invece è pronto ad approfondire, è pronto ad interessarsi ad una cosa piuttosto che un'altra, e non un po' a tutto, quindi a niente. E tutelare queste minoranze e soprattutto, questa è una visione molto personale, incoraggiare alcuni che potrebbero scivolare o rimanere sempre impigliati in questa tendenza superficiale perenne a dire no, guardate, prendete tempo, perché poi per gustare una sinfonia magari ci vuole tempo, no? Non è che tu senti solo un tratto di 30 secondi, ti perdi tutto il resto, è un peccato. Assolutamente. Tra l'altro la parola sinfonia ora mi porta ad un'altra domanda, perché poi sai, tra il serio e il faceto c'è pure un po' di passioni più genuine, quindi il tempo, come sai, poi ahimè è oltremodo tiranno, però c'è ancora un momento per magari ricordare anche agli amici che ci ascoltano che durante la tua trasmissione c'è la possibilità di ascoltare brani jazz. E allora io ero curiosa di sapere, ma come li scegli questi brani? Perché ogni volta noto che sono brani diversi, quindi in base alla personalità dell'intervistato, in base all'argomento, in base al tuo umore, insomma, perché è veramente simpatica l'alternanza tra... Confesso che anche in questo caso c'è un retaggio bruxellese, dell'esperienza fatta lì a Radio Alma, a Bruxellando prima e poi con certi pittori. Cioè, cerco di trovare un tema che leghi in qualche modo con quello di cui si parla. Quando abbiamo parlato adesso di funzionario internazionale, c'era l'idea del mondo in cui, perché l'ONU sta un po' in tutto il mondo, allora io ho messo città in jazz, dei pezzi jazz che però scelti, che mi piacciono, con degli artisti che hanno nel titolo, che richiamano delle città. Quando abbiamo fatto altre cose culturali molto legate all'Italia, ho fatto Battisti Jazz, che tra parentesi era anche una delle puntate di Jazz e dintorni una volta. Quindi ho dei filoni, ma ho delle idee che poi porto avanti, ma poi soprattutto per poi differenziare, no, l'offerta, diciamo, c'è la possibilità di ascoltare degli artisti anche diversi fra loro, fra cui spero magari qualche ascoltatore, questo già mi è successo, mi dice: ah bello, quello non lo conoscevo e mi è piaciuto. Ecco, io penso che, come fai tu con tante altre cose, con i libri o con altre iniziative, la più grande soddisfazione è quando ti dicono che hanno apprezzato qualcosa che tu gli hai fatto conoscere. Basta, questo già giustifica tutto il nostro impegno. È vero, lo confesso, poi è veramente... Ci riempie anche di soddisfazione, perché se solo potessimo vivere di radio saremmo felici, ma poiché così non è, insomma. Stefano, come hai potuto intuire, il tempo è ormai verso gli sgoccioli, allora ne approfitto per farti ancora due domande. La prima è dare un consiglio agli ascoltatori più giovani, a quelli che magari sono ancora indecisi, a quelli che ancora non sanno qual è il percorso che vogliono intraprendere e sono lì a riflettere tra più strade. Che cosa gli consiglieresti? In generale e in particolare, in generale dico siate curiosi e quindi andate a cercare, non vi preoccupate che ancora non avete fatto il piano preciso di quello che farete in termini di studio, però continuate a essere curiosi, a guardare anche strade che magari non conoscete, perché poi magari lì scoprite che è quello che volete fare. Fate delle cose che naturalmente poi non sono destinate necessariamente a diventare un hobby. Non è facilissimo fare di un hobby il lavoro, è più facile avere un lavoro e poi mantenere il lavoro, secondo me, quindi questo bisogna essere realisti. Nel particolare vi dico comunque continuate ad ascoltare naturalmente Bruxellando, date un'occhiata anche a Diplomazia e dintorni, dove magari trovate delle cose che interessano. Non ho detto dove potete trovare tutte le... Bravo, è questa la seconda domanda. Per chi ti volesse ascoltare, diamo quindi le coordinate per ascoltarti. Allora, in diretta è www.radioluis.it, il martedì dalle 20 alle 21. E lì ci sovrapponiamo, ahimè. E lì non dovete ascoltare me in diretta, però avete il vostro programma e tenetevelo stretto. Invece potete riascoltare tutto in podcast, e l'indirizzo più facile per farlo quindi veramente una miniera di suggerimenti, una miniera di racconti, di storie, di tecniche, di saperi. Soprattutto perché poi le cose le fanno le persone. Assolutamente, di persone, chiaramente, sì, abbiamo le persone, ce ne dimentichiamo perché sono implicite, ma dietro ogni libro ovviamente c'è uno scrittore e con lui c'è anche la sua storia. Stefano, c'è un saluto, c'è, oppure c'è qualcosa che non ti ho chiesto, che vorresti aggiungere in conclusione? L'unico saluto che voglio fare è a tutto lo studio lì, che io ricordo, già visualizzo, se tu mi stai chiamando, con molto piacere, ricordo tutti con molto piacere, te in particolare, ma Dani e tutti gli altri, perché continuate a fare un lavoro stupendo e non posso che anch'io augurarvi. Stefano, noi ti ringraziamo ovviamente, quindi... Buon lavoro soprattutto e noi continueremo a seguirti, quindi insomma la stima è veramente reciproca. Grazie e buona continuazione. Altrettanto, a presto. Cari amici, bentrovati, bentornati a Bruxellando After. Ecco, insomma, senza por tempo in mezzo, vi faccio ascoltare immediatamente la seconda parte dell'intervista a Riccardo Ruggero. Un'intervista lunga, un'intervista che fa piacere... farvi sentire nella sua interezza, perché ho trovato che fosse una cosa interessante, quella di uno scrittore, prima di un manager, poi di uno scrittore, poi di nuovo un imprenditore, ma nella parte dei libri. Insomma, c'era anche il dottor Zangrandi che ha fatto il suo intervento, insomma, a me è piaciuta. E quindi adesso ve la faccio ascoltare e noi ci sentiamo appena dopo l'intervista. Proprio perché ho queste due persone davanti a me che conoscono Fiat molto bene, io mi permetto ancora di fare una domanda che riguarda un po' la parte finale del libro. Il resto noi abbiamo cominciato con la mamma e il papà, spiegando che ci sono delle persone importanti, ci si può innamorare, sono dei concetti. Poi c'è una parte centrale del libro che lascerò ai lettori, perché ormai li voglio incuriosire, e però c'è una parte finale in cui c'è comunque un commento, perché uno dice, sei morta, sei andata via, adesso mi resta un vuoto, mi resta qualcosa dentro. E quindi vorrei chiedere due cose. Cosa avrebbe dovuto cambiare la Fiat adesso che lei si può permettere di dire e di vedere il passato con il cenno di poi, ma magari che cosa avrebbe potuto fare diversamente, l'ha in qualche modo già accennato. E che cosa invece ci aspetta il futuro? Che cosa aspetta il futuro di Marchione? Come lo valuta? No, però dunque, allora, lei se perde un treno, quel treno l'ha perso, punto. Quindi non può più fare niente. Quindi, se lei prende la copertina del libro... Dietro io divido in varie fasi storiche, metto delle date e do un giudizio molto duro in ognuna di queste date, di questi casi. In pratica la grande speranza per me è stata Marchionne, no? Perché Marchionne veniva dopo un periodo buio che era... E nel libro io per la prima volta cito una cosa che hanno trascurato tantissimi, l'influenza di Mani Pulite sulla Fiat. E io faccio dei ragionamenti, sul libro c'è un capitolo molto, molto delicato, ma molto, molto puntuale, secondo me, ha pagato un prezzo altissimo la Fiat, scegliendo la strategia che ha scelto. Mm-hmm. Così come altre aziende hanno scelto questa, perché questo è stato un colpo che giornalisticamente è una cosa piacevole, ma però entrava dentro alle viscere, entrava dentro alle carni dell'azienda, e quindi si sono avute delle cose molto che hanno inciso profondamente. Tutto questo fatto non è ovviamente solo Mani Pulite, che è un aspetto, ma tutto poi il fatto strategico della non scelta di un certo tipo ha portato poi a determinate conseguenze. C'è stato un periodo buio, si sono succeduti a grande velocità presidenti, amministratori delegati, più o meno come succedeva nei periodi di grande declino, dove i romani facevano gli imperatori, li cambiavano con una grande facilità. E arriva Marchionne e personalmente l'ho visto estremamente, in modo molto positivo, soprattutto perché arrivava uno che non era un car gay, come si dice nel campo automobilistico, cioè non era un ragazzino entrato come eravamo noi, e quindi arrivava in un altro modo, in modo ideale di tutto. E lui doveva fare sostanzialmente, aveva due cose che sono, che le ha svolte in un modo meraviglioso, e cioè chiudere il rapporto con General Motors, facendosi dare dei soldi, una delle cose più straordinarie che possa fare un manager è quella di prendere dei soldi da uno che doveva comprare, no? Cioè lo trovo una cosa, dobbiamo dire onestamente che lui è stato avvantaggiato da un contratto meraviglioso scritto da Fresco, perché se non c'era il contratto scritto in quel modo, questo non si faceva. Il secondo aspetto che lui ha condotto in modo brillante è stato il cosiddetto convertendo con le banche, cioè questo gli ha dato respiro, e non è vero quello che si dice, io nel libro lo dico che quando è arrivato Marchionne nel 2004 la Fiat fosse fallita, no, la Fiat era fallita, Fiat Auto era fallita, ma il resto della Fiat non era per niente fallita, quindi poiché parliamo di Fiat ma non di Fiat Auto, se parliamo di Fiat Auto. Però Fiat Auto era fallita anche dopo, e sarebbe interessante vedere come va adesso, no? Ma sì, questo ormai non è più esaminabile. Lui aveva di fronte due opzioni. Le due opzioni che lei può chiamare vendita o può chiamare consolidamento. Un tempo si chiamava vendita, adesso pare Marchionne la chiama consolidamento, vuol dire mettersi con un altro, anche se l'altro non è proprio d'accordissimo, no? Allora, parliamo di consolidamento. C'era una grande opportunità di fare un consolidamento. Il consolidamento era di farlo con i tedeschi che in un certo periodo della metà degli anni 2000 erano per motivi diversi, erano interessati, sia Mercedes era interessata a Fiat, tutte cose che nel libro scrivo, sia Audi era interessata, Picci in particolare era interessato al marchio Alfa Romeo. Perché la Fiat, l'Italia in quel momento, si trovava nella stessa situazione che si era trovata l'Inghilterra ai tempi della Thatcher. Cioè l'industria dell'automobile sta saltando perché salta l'azienda leader nazionale. In Inghilterra si chiamava British Leyland e qui si chiamava Fiat Auto, stiamo parlando di Fiat Auto. La signora Thatcher non ha nessun dubbio. Nei supremi interessi dell'Inghilterra fallisca Fiat Leyland, British Leyland, e si salvi l'industria dell'automobile. Perché quando lei dice automobile, nel caso dell'Inghilterra, della Germania e dell'Italia, intende anche l'industria della componentistica. Tenga presente che ogni operaio che c'è dentro un'industria, ce ne sono quattro che sono fuori. Quindi il vero interesse dell'Italia era avere che si salvasse l'intero comparto. Questa strada Marchionne non l'ha scelta, ovviamente aveva tutti i diritti di non sceglierla, non l'ha scelta, e si è trovato, come racconta il libro, nel 2009, nel febbraio del 2009, in cui praticamente è certificato il fallimento di Fiat Auto. Addirittura per la prima volta i bond vengono giudicati spazzatura, cosa che non era mai successo prima. Quindi poi avviene, ma sono due momenti diversi, avviene poi il caso Obama, che ha assolutamente bisogno di cedere in qualche modo, e quindi dopo averlo offerta via via a tutti, facendo un'operazione come si fa in questi casi, cioè lei offre un'azienda, le dicono di no e lei ci mette una dote, poi l'aumenta la dote, come la brutta figlia partita, no? Cioè, quindi, e alla fine rimane la Fiat, l'ultima a cui la offrono, e la Fiat la prende. E quindi nasce una nuova storia. Probabilmente adesso ci accorgiamo che bisogna fare qualche cos'altro. bisogna fare il consolidamento, non lo dico io, lo dice Marchionne. Questo è lo stato dell'arte. Quindi che cosa dobbiamo aspettare? No, io credo che se Marchionne, adesso poi se crede le mando un articolo che ho scritto recentemente su Milano Finanza, io non ho nessun dubbio che abbia ragione Marchionne, è una questione di vita o di morte, quindi deve per forza, l'operazione General Motors deve avvenire. Poi come avvenga, se come avverrà, non lo so, io faccio un'ipotesi su questa cosa, buttandola in politica, dicendo che se ne deve interessare Obama, no. Ma se c'è bisogno del consolidamento, bisogna farlo, ma lo dice Marchionne, non lo dico io, ecco. No. Beh, è estremamente interessante, stiamo a vedere che cosa succede allora con la General Motors, quale sarà il prossimo passo che ha fatto Marchionne. Ormai il tempo sto scarseggiando, visto che i minuti stanno scorrendo rapidi, quindi volevo fare un'ultima domanda che però riguarda non lo scrittore ma l'imprenditore, con la casa editrice. Vuoi un po' riprendere le fila a casa editrice? Ci spiega perché l'ha fatta e come è costruita? Perché l'ho fatta in realtà era una cosa abbastanza banale, nel senso che avendo avuto fortuna nella vita io avevo deciso a un certo punto di dare delle cose in beneficenza e mi sono detto, ma perché devo continuare a firmare un assegno? Avendo ancora un certo interesse intellettuale, un certo interesse di vivere in un certo modo, ho detto prendo questi soldi, quindi non quelli che ho già deciso, non altri, prendo questi soldi e li cerco di investire in qualche cosa mettendoci dentro il mio lavoro, non essere un semplice, coinvolgere altre persone, eccetera, eccetera, e faccio qualcosa. È evidente che per uno che ha amato la letteratura, amato lo scrivere, amato tutto questo, il sogno è fare l'editore. Nello stesso tempo io sono stato manager, un imprenditore, so benissimo che è fallimentare dal punto di vista economico, è impossibile guadagnare, proprio tecnicamente è impossibile guadagnare. Allora mi sono detto, io devo fare una organizzazione che abbia costi zero. E come la faccio a fare a costi zero? Lo faccio mettendoci i miei soldi per dedicarli alla costruzione del libro, costruzione nel senso proprio fisico, di stampare il libro, fare la logistica, pagare i diritti d'autore, cose di questo genere. E questo sono quei soldi, quel gruzzolo che ho messo, che mettevo tutti gli anni. La seconda cosa è coinvolgere su questa idea delle persone che sono riuscito a coinvolgere 5 o 6 persone, le quali dedicano nelle loro priorità, c'è la casa editrice, non so, ad esempio uno è un celebre commercialista, fiscalista, che è l'amministratore di questa cosa qui, che ha un sacco di impegni, ma se io gli mando una cosa relativa alla casa editrice Gran Torino Libri, lui mi risponde in 30 secondi, perché nelle sue priorità viene Gran Torino Libri. E così quello che fa la grafica, così quello che si occupa di fare l'editor, quello che fa, e quelle poche persone che lavorano totalmente dedicate a questa cosa qui, ovviamente gratuitamente. Quindi lei si rende conto che il mio conto economico è meraviglioso, perché evidentemente è una cosa in cui gli incassi entrano gli incassi e non c'è nessuna uscita, perché le uscite sono già state pagare, quindi dobbiamo solo pagare le tasse, non potendo scaricare nulla. Ecco, questa è una cosa, evidentemente, se lei lo guarda da un punto di vista economico, giro per l'Italia, addirittura vengo a Bruxelles, e ovviamente a mie spese e tutto il resto, non c'è nessuna proporzione tra il numero di libri che vendo, ma è, io trasferisco però il fatto che io ci vado. Cioè, quando, non so, recentemente sono stato a Brescia a presentare una cosa, io parto con la mia macchina, i libri, e li porto io, non li spedisco neppure, qui a Bruxelles non potevo farlo, dovevo spedirli. Ma per dire, noi abbattiamo tutti i costi, perché io faccio tutto, il rappresentante. Beh, allora è incredibile. La famosa One Man Company. La One Man Company, completamente One Man Company, totale. E l'ultimissima domanda. So che, e qui per il libro di cui stiamo parlando, abbiamo parlato questa sera, in questa intervista, ma ha anche qualcos'altro in pentola? C'è qualcosa che bolle in pentola? No, io c'ho, lo posso annunciare perché proprio la prossima settimana do il via a questo libro che ha scritto una maestra dell'asilo, un libro di una bellezza sconvolgente, spero che vi invitino di nuovo a Bruxelles a venirlo a presentare. È un libro che tratta, sono dei bambini, sui bambini di una scuola materna, quindi dai 2 ai 5 anni, che raccontano, che fanno domande alla maestra, e la maestra ha questa tecnica, che essendo una persona di grande valore, ha questa tecnica di non rispondere, ma di fare rispondere con un'altra domanda. In questo modo il bambino fa un suo commento e finisce lì. Lei ha raccolto tutta questa massa di informazioni e quando si è saputo questo, di quella scuola ci va il figlio del direttore editoriale di una casa editrice prestigiosissima, il quale ha detto: io lo pubblico, e lei invece ha scelto me per motivo, perché è Gran Torino e Libri, e quindi ha scelto questo. Questa è stata una soddisfazione immensa. Il libro si chiama Maestra, cosa ne sarà di me? È una delle domande che fa questo bambino. Ed è una cosa molto interessante che noi ci limitiamo semplicemente a metterlo lì, ma mi auguro che ci sia delle persone che lo studino, perché attraverso il linguaggio di questi bambini e attraverso il passaggio, di lì si capiscono i genitori e si capisce il contesto in cui viviamo. Cioè un libro di straordinaria sensibilità, perché io che ho scritto una piccola nota iniziale, non ci avevo mai pensato, ma noi nasciamo per bene, non siamo ancora corrotti. No, noi nasciamo per bene, i ragionamenti di questi bambini sono di persone per bene, che non sono inquinati da nulla, pur vivendo, ed è interessantissimo, vivendo i rapporti che hanno in famiglia, che si trasferiscono sulle domande che fanno la maestra. Cioè, una cosa veramente, per me è stato un libro sconvolgente, di una bellezza straordinaria. La sua passione verso la sociologia, trovate in qualche modo uno sbocco. Beh, secondo me però con un libro così si possono fare dei quattrini sul serio. Ma io spero, chi lo spero. Oltretutto c'è un amico, anche lui che collabora a questa cosa, che si chiama Massimo Recalcati, che adesso è una celebrità in Italia, che ha scritto la prefazione. Bene. Se ci ricordiamo, speriamo che me la cavo. Io speriamo che me la cavo, come ho detto. È stato un libro grosso modo, sì, nello stesso filone. Ti auguro. Solo che questo è di una, è proprio, è perché siamo a un livello molto più, sono piccoli, hanno 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, cioè sono molto piccoli. E la cosa interessante, se non faccio. No, prego, la cosa interessante è, ad esempio, che questi bambini, il libro è diviso per età. Le battute sono battute per età. E poi è diviso, e poi ci sono 2 cose che loro vivono in questo asilo di Torino. Però 2 volte all'anno, in inverno vanno in un agriturismo a Castellamonte, vicino a Ivrea, e stanno una settimana soli con la maestra e le sue 3 assistenti. Alla fine della scuola, quindi in questi 15 giorni fa, sono andati a Ussedio, che è in montagna, in provincia di Susa, allora è interessantissimo vedere i vari pezzi, perché nel pezzo, diciamo, cittadino sono bellissimi, ma non c'è in quello di Castellamonte, c'è la sensazione della libertà, loro sono liberi e sono ancora più diretti, non hanno freni di nessun genere. In quello di Usseglio, dove è finita la scuola, ci sono addirittura venature di sesso. Ovviamente non pensiamo da adulti, ma venature di sesso. Ci sono delle battute sulle cose, perché loro lì sono veramente totalmente liberi. È proprio il concetto di libertà totale. Forse i manager vanno portati in montagna e incalpati per migliorare. Ma le hanno tentate tante, no? Non funziona. Guarda, se magari l'essere umano si corrompe nel tempo, quindi anche questi tentativi andrebbero fatti forse sì, ma in maniera anche un po' più complessa. Io sono estremamente felice di questa intervista e ringrazio infinitamente il dottor Ruggeri per questo suo libro Fiat, una storia d'amore, aperta parentesi, finita, chiusa parentesi, edita da Gran Torino Libri, di cui appunto due versioni, in italiano e in inglese, su Amazon. Ci ha raccontato addirittura che ci sarà un nuovo libro interessantissimo, già solo sentirne parlare così sono già interessato, vorrei leggerlo. E ringrazio il dottor Zangrandi che è stato qui con noi, forse ha usato la sua pazienza mentre mi ascoltava a fare intervista. Voi ovviamente magari l'avete sentito e siete venuti all'Istituto Italiano di Cultura a sentire in diretta l'intervista e la presentazione del libro. Nel caso l'abbiate fatto, vi siete persi qualcosa, perché le domande saranno completamente diverse e questa è un'altra cosa. Come al solito cerchiamo di offrirvi qualcosa di diverso, qualcosa che in genere non si trova. Io vi saluto e buona notte a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. Arrivederci. Eccoci tornati dopo l'intervista che, confesso di nuovo, a me è piaciuta un bel po', perché abbiamo analizzato aspetti diversi. Ma, dulcis in fundo, arriva qualcosa di interessante, qualcosa che piace a voi e che piace anche a me, insomma, che piace un po' a tutti quanti, ed è Fiordaliso col suo appuntamento. Fiordaliso con Librangolo. Stasera vi ho portato un libro di Tracy Chevalier, di cui abbiamo già parlato. Abbiamo soprattutto parlato della ragazza dall'orecchino di perla, abbiamo parlato anche del libro Strane creature, che mi è piaciuto soprattutto perché si tratta della scoperta dei scheletri di dinosauri, una situazione che stava ribaltando tutte le teorie su come la vita si era sviluppata sulla Terra. Poi abbiamo parlato anche della Dama con l'unicorno, che invece è un libro che sta esplorando la storia degli arazzi che tanto ammiriamo e su di cui non si sa tanto, soltanto il fatto che sono molto unici. Stavolta il libro che ho letto di Tracy Chevalier si chiama L'innocenza, che narra la storia di due giovani ragazzi. Uno di loro, la ragazza, che si chiama Maggie, è una cittadina della fine del 1700, quindi è una che si trova benissimo sulle periferie londinesi, che conosce sia il bello che il brutto della città e riesce a difendersi. E dall'altro lato abbiamo Jem, figlio di un falegname, che viene insieme alla famiglia a Londra per provare la loro fortuna, e che sta un po' con gli occhi spalancati a guardare questa nuova sua realtà londinese. C'è il circo, tipo un Cirque du Soleil di quei tempi, con una figura di manager di circo interessante che sta cercando di introdurre degli elementi nuovi, di nuove illusioni. Dall'altro lato ci sono anche i malviventi, e proprio in strada c'è anche William Blake, che è piuttosto un personaggio affascinante e culturale. I giovani incontrano William Blake, scrittore di libri per i bambini soprattutto, che faceva anche delle illustrazioni molto fantasiose ai loro libri, e attraverso il suo fascino, la sua personalità, attrae anche i due ragazzi verso il suo mondo, cioè li attrae verso l'imparare a leggere e di tenersi un po' anche un angolo culturale nella loro anima. Si tratta comunque di un periodo molto interessante. Effettivamente William Blake era un sostenitore della rivoluzione francese, o almeno degli ideali della rivoluzione francese. In quel periodo c'era grande preoccupazione in Inghilterra, anche se una monarchia esattamente come, come la Francia, si aveva paura che il conflitto potesse trasmettersi anche, anche in Inghilterra e che si possano avere gli stessi fenomeni, la stessa crudeltà, lo stesso sterminio praticamente di un'intera classe, classe sociale. E quindi, per esempio, nel libro si presenta una scena in cui dei cittadini stanno girando con una dichiarazione di fedeltà alla monarchia e chiedono a tutti di firmare, e quelli che rifiutano di firmare rischiano un po' il linciaggio, praticamente. La storia si ripete, ovviamente, quando si presentano degli spettri poco controllabili o comunque difficili da gestire. Molto spesso ci si ricorre al panico e al cercare di assicurarsi che catastrofi non succedano. Se volete che vi faccia un esempio, negli Stati Uniti la caccia ai comunisti era proprio un'espressione simile del panico. Anche gente innocente che non c'entrava niente con i servizi segreti di Mosca o che semplicemente aveva delle loro convinzioni politiche o le loro ideali, potevano essere facilmente perseguitati dal meccanismo, dalla macchina di persecuzione. Quindi siamo un po' in una situazione simile. Quindi il contesto storico è interessante e il personaggio culturale William Blake, anche lui è un personaggio interessante, però stranamente io avevo il sentimento che stavolta Tracy Chevalier non abbia riuscito di far scoccare la fiamma, cioè avevo il sentimento che la storia non si connettesse bene. Avevo il sentimento che si avrebbe potuto fare molto di più, fare una storia molto più affascinante. Sicuramente non è possibile che uno scrittore per tutta la sua carriera scriva dei libri esattamente dello stesso livello, ma io ho proprio l'impressione che il meglio lei l'abbia fatto proprio all'inizio con La ragazza dagli orecchini di perla. Effettivamente questo libro, cioè il fascino di questo libro ha ispirato anche un film e vorrei anche raccomandarvi eventualmente di riguardarlo, perché davvero i registi e gli artisti che hanno fatto questo film sono riusciti a far vedere praticamente dei quadri fiamminghi moventi sullo schermo, che è bellissimo, e ovviamente questo poteva soltanto nascere perché Tracy Chevalier è riuscita a costruire, ricamare una bella storia attorno alla figura di Vermeer. Quindi è una scrittrice capacissima, però questo libro mi è piaciuto un po' meno, e che non vuol dire che non possiate divertirvi a leggerlo sotto un ombrellone quando avete bisogno di un divertimento un po' più leggero e eventualmente avete comunque voglia di farvi una scappatella nel passato, ai fini del Settecento. Fine Settecento. Ma alla fine non è solo del Settecento, purtroppo è anche di questa trasmissione, perché ormai siamo gli sgoccioli. Passiamo dal fine Settecento a fine Brucellando After. È così. E allora niente, non ci resta che lasciarvi fino a settimana prossima, dove parleremo ancora di libri e di ombrelloni, perché vi daremo la lista per l'estate. E nel frattempo non mi resta che salutare Dani M in regia, la bellissima Fiordaliso qui davanti a me. E salutiamo Giorgio. E noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!